Allora, è il giorno di Pasqua e sebbene dobbiamo mantenere quella che si chiama la distanza sociale, tuttavia tramite il cellulare, tramite WhatsApp arrivano tantissimi auguri, una Pasqua, arrivano una miriade di vignette di tutti i tipi, di tutti i tipi. È stato così che stamattina mi è arrivata anche una telefonata verso le 8:30 di una parrocchiana. Mi dice: allora, auguri, buona Pasqua, Don Ambrogio, ti ringrazio. Dico: ma tu l'hai sentita l'ultima? No, cos'è successo? È risorto Gesù. Oh, Don, ma mi fa spaventare. Mi dice: cos'è successo? Credevo. Ti fa spaventare. È proprio l'ultima questa, perché non la dice nessuno. E allora, dopo che ci siamo un momentino tranquillizzati, ci siamo messi a ragionare e voglio ragionare anche con voi e dire, cari amici, dire buona Pasqua è dire un fiato. Se poi si dice auguri, o se magari si tira sulla testa, come dire, la Pasqua vuol dire che Gesù è risorto, anzi, che è vivo, ma per davvero. Cari amici, la differenza sta proprio qui, nel ritenere di farci un augurio o nel darci una notizia vera, che per me, grazie a Dio, Gesù è vivo. Gesù è vivo per davvero. È per questo che io magari rispondevo un po' tra lo scherzoso, come ho fatto oggi, e il tremendamente serio a qualcuno che magari contestava, mi arrivava una mail, o magari e dice: dov'è il vostro Dio? Dov'è? E io tranquillamente rispondevo: dove l'abbiamo messo noi? Io ce l'ho nel cuore. Tu probabilmente non ce l'hai nel cuore, se no non ti chiederesti dov'è. L'hai sfrattato, porta nelle conseguenze, cosa ti devo dire? E magari dicevo tranquillamente, senza nessun risentimento, senza nessuna rabbia, gli dicevo: peggio per te. Amici, è così. Chi non ha Dio è peggio per lui. Oh, io sono a disposizione per dirgli dove sta, Sono a disposizione per farglielo incontrare. Mi metterei con questa persona semplicemente a leggere il Vangelo o a leggere la liturgia. Per esempio, la prima orazione di oggi nel nostro rito ambrosiano è bellissima. O Dio, che vincendo la morte nel tuo figlio risorto, e mi fermo a mangiare, a masticare, a ruminare queste parole, vincendo la morte. A questo, amici, è questo che noi non ci ricordiamo più delle ultime parole del credo: aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Aspetto? No, amici. Noi possiamo farci tanti emoticon, possiamo farci tante... Ma noi non fissiamo lo sguardo su Gesù, che è risorto, che è vero. I nostri morti, grazie a Dio non ho avuto ultimamente dei morti, ma ne ho avuti tanti nella mia famiglia, perché le famiglie numerose hanno tanta vita, e tanta vita che parte. I nostri morti, che io chiamo con una frase da copyright, i diversamente vivi, i nostri morti stanno col Signore. È per questo che non deve mai cessare il nostro rapporto d'affetto con i nostri che abbiamo amato su questa terra e che, grazie a Dio, ci aspettano. Ecco, per me la Pasqua è questo, amici. Vincendo la morte nel tuo Figlio risorto, ci hai dischiuso le porte della vita eterna. Il paradiso c'è. Il paradiso c'è. E io mi auguro che anche voi vi fermiate ogni tanto a pensare al paradiso. Io non posso fare in una predica di 10 minuti, fare tutta una catechesi, ma sarebbe interessante fantasticare sul paradiso, dove a buon conto l'umanità è già presente, perché Maria è su in paradiso, diciamo su per dire, è su in paradiso col suo corpo, il corpo di donna. E se aveva i capelli probabilmente neri, non era una biondona, visto che era del Medio Oriente, col suo seno di donna che ha allattato Gesù. Oh, ma cosa dici, Don? Parli di queste cose in predica? Perché le avete mai viste le Madonne del Latte nelle nostre chiese? Una vera donna, come voi mamme. Questa è la bellezza della nostra fede, cari amici. È una realtà, non per essere andati dietro a storie fantastiche, artificiosamente costruite, dice San Pietro, ma per essere andati dietro a Gesù Cristo, che è vissuto su questa terra, che è risorto, che hai dischiuso le porte della vita eterna e ci hai ricolmato di gioia. Serba i nostri cuori liberi da ogni umana tristezza e ravviva in noi l'attesa del tuo regno. Ecco, io mi auguro che tutti voi Gesù ce l'abbiate nel vostro cuore, nella vostra mente, ce l'abbiate dentro proprio, che non son più io che vivo, diceva l'Apostolo, è Cristo che vive in me. Vi auguro che sia così, e se così non fosse, io vi prometto una preghiera particolare. Si prega sempre per i morti, io prego tanto anche per i vivi. Mica devo aspettare che siate morti per pregare per voi. Comincio a pregare da vivi, che possiate incontrare Gesù, che possiate guardarlo in faccia e sapere che Gesù non solo è risorto, è vivo.